baracca se anda me la fumo tutte. Dicevo, iniziamo per così anche rendere edotti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di quello che sta succedendo a Roma o di quello che è successo a Roma a partire da dicembre, anche perché poi ci sono stati dei tentativi di sgombero, mi sembra che forse solo uno sia realmente riuscito. Gli altri fortunatamente non sono riusciti, anche per la prova di resistenza, insomma, dei compagni e delle compagne, degli occupanti e degli occupanti. Quindi un quadro generale, partirei da qui, insomma, sulle nuove occupazioni che appunto hanno riproposto con forza il tema dell'emergenza abitativa a Roma. Sì, inizio con una precisazione, appunto il corteo che ci sarà sabato nasce da questa nuova stagione di mobilitazione del Movimento di Lotta per la Casa, iniziata il 6 dicembre, quella giornata che, come tutti saprete, ha visto una decina di occupazioni in tutta Roma, quindi una cosa che non si vedeva da un bel po' di tempo, semmai si è vista, io non me la ricordo. E che ha visto, diciamo, questo sì, come non si vedeva da tempo, e tutti i movimenti di lotta per la casa muoversi in maniera comunque concordata e coordinata, e seppur rimanendo le posizioni differenti, le analisi, valutazioni, obiettivi più o meno differenti, li ha visti appunto muoversi insieme. E così anche il corteo, quindi non si tratta solo del coordinamento. Poi all'interno di quel corteo l'appello a cui facevi riferimento è per uno spezzone all'interno del corteo, che è un corteo più ampio, che vuole così, insomma, portare insieme in piazza una serie di realtà che da un po' di tempo fanno le cose insieme con i propri contenuti. Quindi, come dicevo, appunto, tutto parte dal 6 dicembre, in cui chiaramente, al di là di qualunque cosa possa dire il nostro sindaco, faceva riferimento agli articoli sul Messaggero, è interessante, oltre all'articolo incriminato di cui poi parleremo, il giorno successivo la risposta di Alemanno, che dice: ma come, io ho contenuto il fenomeno delle occupazioni, avrei fatto anche più sgombri se solo avessi avuto i soldi per farli, diciamo, semplificando. Però, diciamo, alla faccia sua, movimenti o non movimenti, la situazione abitativa a Roma è sempre peggio, perché appunto quando leggiamo sui giornali le statistiche che ci parlano di calo del prezzo degli immobili, sostanzialmente significa che, a parte che sono cali sempre di un punto percentuale, ma comunque significa che effettivamente ormai sono sempre più larghe le fasce di popolazione per le quali il mercato degli immobili è totalmente inaccessibile. E quindi quello che dicevo è che, con o senza soggetti organizzati, le occupazioni a Roma avvengono, perché comunque è una contraddizione troppo forte quella che vede palazzi vuoti a bizzeffe. Basta fare un giro per il raccordo e guardarsi intorno, e sono decine, centinaia, migliaia, le statistiche sempre le stesse, ci parlano di centinaia di migliaia di palazzi sfitti, e ovviamente persone che non ce la fanno a pagare l'affitto. Questo non è un modo di dire, ma negli ultimi mesi sono anche avvenute occupazioni non organizzate di appartamenti sfitti. E con alcune, durante questa giornata siamo anche entrati in relazione con alcune di queste realtà, nel senso che poi siamo andati a occupare in posti e abbiamo scoperto che la palazzina accanto era già occupata in maniera spontanea. E quindi, chiaramente, diciamo, tra virgolette, facendo una battuta, i movimenti della casa hanno anche, come dire, facile gioco, perché l'esigenza è talmente forte, la contraddizione è talmente evidente che diventa anche difficile poi argomentare il fatto perché sia sbagliato occupare, e ce ne vogliono a dire che togliamo le case a chi ne ha diritto. Questa chiaramente è una balla bella e buona, visto che le case stanno là, e se casomai sono loro che usano soldi pubblici per fare gli sgomberi in forze militarmente per tenere una proprietà privata vuota, diciamo, quando invece appunto diciamo, in una logica, non dico ma semplicemente di amministrazione della città, di buon senso, vorrebbe delle misure perché quelle case vengano utilizzate per chi le servono. E quindi, dicevo, appunto, il 6 dicembre è partita questa ondata di mobilitazione che non si è ancora fermata, che è stata chiaramente duramente attaccata pochi giorni dopo con lo sgombero effettuato, che in realtà poi erano più di uno sgombero insieme perché erano quattro palazzine, a Ponte di Nona, e lì si è fermata l'ondata degli sgomberi proprio per, come dicevi tu, per la forte mobilitazione e determinazione degli occupanti e di chi è accorso in loro sostegno. Credo perché si sia capito che comunque sia sempre più larga la consapevolezza che chi fa la lotta per la casa c'ha da sempre, che comunque i diritti, tra cui quello ad un'abitazione decente, si conquistano, cioè si prendono quando c'è da prenderseli, perché non ha più senso, semmai ce l'ha avuto, aspettare, diciamo, provvedimenti da chi ci governa perché i nostri bisogni siano soddisfatti. La cosa, diciamo, su cui volevo mettere l'accento è che questa, diciamo, forte mobilitazione di occupazioni, questa forte ondata di occupazioni, da subito è entrata in relazione in vario modo con altre vertenze, altre lotte, a cominciare, diciamo, quella con cui c'è stata più forte relazione, quella dei lavoratori della sanità, perché ad esempio l'occupazione, una delle più grosse, che è quella del coordinamento di Torre Vecchia, occupa una clinica recentemente dismessa per via dei tagli al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi il proprietario, che per decenni si è ingrassato con i soldi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, adesso ha cacciato i lavoratori, ha dismesso la clinica, e vorrebbe, non contento, vorrebbe specularci sul piano, vorrebbe fare una speculazione edilizia, quindi prima sulla sanità, poi sulla speculazione edilizia. Si tratta sempre di privati che si ingrassano grazie ai soldi pubblici. Lì vicino, appunto, si è subito entrato in relazione con i lavoratori del San Filippo Neri, che stanno affrontando dei provvedimenti di taglio e di licenziamenti, insomma, però le prospettive sono nere, e con loro e con gli studenti medi della zona è stato fatto un bel corteo territoriale a dicembre, e diciamo che il corteo del di sabato vuole essere, diciamo, in quest'ottica, quindi si spera, almeno nelle intenzioni di chi l'ha indetto, che ripeto sono tutti i movimenti di lotta per la casa, vuole andare anche al di là della semplice difesa dell'occupazione, ma anche al di là delle semplici rivendicazioni riguardanti il problema dell'abitazione. Quello che si auspica è che sia partecipato anche da soggetti sociali differenti, e che diventi pure una espressione di piazza della, chiamiamola, opposizione sociale, comunque variegata, comunque c'è sta in mezzo un po' di tutto, compreso chi magari c'ha interessi elettorali in questo momento, chi ce l'ha, chi noi non ce l'abbiamo, in ogni caso, appunto, questa è l'intenzione. Rieccoci. Allora, no, abbiamo avuto un attimo un problemino. Il discorso era abbastanza chiaro e, insomma, sono state dette tante cose. In particolare, vabbè, il fatto che, appunto, l'esigenza della casa in una fase come questa sia, peraltro, insomma, lo è sempre stato un po' il problema dei problemi in questa città, ma che sia ormai un fattore che può essere esplosivo e sotto gli occhi di tutti, e non è un caso, credo, il fatto che questa ondata di occupazioni abbia radunato centinaia e centinaia di persone, insomma. Poi lo dicevi benissimo tu, insomma, le occupazioni in città c'hanno anche una germinazione spontanea, e questo è un fattore, oserei dire, tradizionale per la nostra città, è chiaro, insomma, che si pone l'esigenza, che peraltro mi sembra sia stata anche riconosciuta in uno dei processi di cui a breve parleremo, riguardo un'occupazione, la necessità anche di organizzare, no? Questo bisogno, e anche di, come dire, una volta effettuata l'occupazione, concepire un autogoverno della stessa, no? Magari poi di questo un po' ne parleremo, visti sempre gli attacchi abbastanza, insomma, sconfortanti, anche infami peraltro, che sono stati prodotti dal Messaggero nel corso della settimana che è passata. E, no, riguardo invece appunto proprio le nuove occupazioni, la situazione anche dal punto di vista, diciamo, della relazione, se vogliamo, istituzionale, è normale che poi quando si occupa, insomma, occorre non solo difendere l'occupazione, ma anche intavolarle un minimo di confronto, sempre per fare in modo, insomma, che la situazione regga e che non ci siano, insomma, nell'immediatezza dei problemi. Ci sono stati ad esempio degli incontri anche con l'ACER, mi sembra subito dopo, ci sono stati degli effetti, delle proposte, qualcosa che può essere minimamente annoverabile, insomma, verso un riconoscimento, un passo avanti. Allora, diciamo che in questa fase, a partire dal 6 dicembre, le nuove occupazioni, c'è stato un vuoto di, cioè, da parte delle istituzioni pubbliche, quindi in particolar modo il Comune, totale, cioè non c'è stato alcun tipo di tentativo di mediazione. Io immagino sia anche per motivi di comodità politica, nel senso che, visto che questa giunta insomma sta finendo il suo corso, perché ci saranno elezioni molto a breve, la sensazione è che non voglia affrontare sta sorta di patata bollente adesso, perché comunque il problema posto è politicamente anche difficile da gestire, perché è un'ondata grossa di occupazione, insomma, che pone il problema proprio con forza al centro del dibattito politico. Il Comune e la Giunta pensano benissimo di svincolarsene totalmente e abbandonare la questione all'ordine pubblico in qualche modo, quindi una gestione lasciata alle forze dell'ordine, alle decisioni della questura, che è intervenuta con determinazione a Ponte di Nona, riuscendo a sgomberare, oltretutto, diciamo, una questione di proprietà, insomma, era un po' una sfida quella di Ponte di Nona, no? Palazzine appena costruite con appartamenti da vendere, di cui in realtà, come sempre accade, una minima parte era stata venduta, anche perché chi se la compra a casa in questo periodo, però insomma il problema lì era, diciamo, perché si è stato pensato di risolvere in maniera più immediata. Su tutte le altre non c'è una vera volontà politica di affrontare il problema, insomma, cioè, la sensazione è proprio che si lasci ai posteri in qualche modo. E riguardo a Torre Vecchia, l'occupazione a Roma Nord, ci sono stati alcuni passaggi a livello di municipio. L'unica cosa è stata quella, almeno che io sappia, con mozioni in consiglio municipale, in cui si, diciamo, un po' vagamente si auspicava una soluzione politica, su spinta anche di alcuni consiglieri di sinistra, si auspicava una soluzione politica. Nella mozione di tutto il consiglio si sottolineava il fatto che secondo loro l'ex clinica di Valle Fiorita non era il posto adatto per abitare, insomma, per rimanere là. Ovviamente noi la pensiamo diversamente, perché insomma a livello strutturale, cioè, le persone si stanno anche sistemando, insomma è un posto che con un po' di accorgimenti, un po' di aggiustamenti è perfettamente vivibile, e si auspicava quindi una soluzione alternativa, insomma si auspicava di non buttare tutte queste persone in mezzo a una strada, però non si individuavano neanche soluzioni credibili al momento, mentre a livello appunto di comune la sensazione è proprio che ci se ne lavi le mani, perché comunque il problema è grosso, cioè qui affrontandola con gli sgomberi si lasciano in pieno inverno migliaia di persone in mezzo a una strada, migliaia di persone che probabilmente insomma reagirebbero anche in maniera piuttosto determinata, perché insomma non stanno certo lì a guardare. No, sì, poi c'è stato questo episodio a cui facevi riferimento, un incontro presso l'ACER con i costruttori, richiesto da loro, ci tengo a precisarlo, che con una battuta si potrebbe anche definire col fatto che i costruttori bypassano ormai gli inetti amministratori che sono i loro agenti d'affari e direttamente diciamo interloquiscono con la controparte, che sarebbero gli occupanti, che poi per, sostanzialmente non ha avuto alcun peso, alcun seguito, anche perché le proprietà in cui erano direttamente coinvolti sono quelle che sono state sgomberate, quindi evidentemente in cui, diciamo, secondo me, questa è una mia opinione, erano quelle occupazioni in cui l'interesse speculativo era più immediato. Faccio l'esempio di Torre Vecchia, probabilmente là per farci una speculazione devi hai tempi più lunghi, perché devi avere il cambio di destinazione d'uso, aprire il cantiere, mentre là quelle erano case pronte da vendere. E penso anche che chiaramente, come spesso avviene, quasi sempre avviene quando si vanno a occupare case private, qualche anno fa si faceva, adesso si fa sempre meno, ci si prova, ma lì la risposta è sempre più dura e più immediata, per due motivi: uno, quello che ho detto, che l'interesse è più immediato, e due, che è una pratica che veramente corre il rischio di dilagare a fronte cioè se la gente inizia a occupare, inizia a capire che è possibile occupare gli appartamenti vuoti e non gli uffici abbandonati, per quanto ben messi, chiaramente il fenomeno può diventare di massa, visto che in questa città, dicevamo prima, ce ne stanno e come di questi appartamenti, ed è per questo che la repressione è sempre più puntuale, più immediata e più dura. No, infatti mi sembra l'indicazione che sia emersa dal 6 dicembre davvero, insomma, più avanzata, se vogliamo, rispetto anche alla stagione passata, che ha coinvolto gli attori sociali interni al movimento di lotta per la casa, no? Proprio perché è chiaro che di fronte al bisogno, anche occupare una scuola o un edificio dismesso, un ex caserma, insomma, chiaramente sia il portato dell'accumulo di lotte, esperienze pregresse, ma anche la necessità comunque di dover trovare dei posti che siano dismessi. È chiaro che l'indicazione invece di andare a occupare delle case vere e proprie, magari anche ben messe, insomma, quantunque eccentriche magari rispetto alla città consolidata, beh, è un'indicazione che davvero, se presa insomma alla lettera, può portare degli effetti sicuramente positivi per chi anima i movimenti, e credo grandi e ampi timori insomma per chi nella vita ha scelto la speculazione come settore affaristico privilegiato. E quindi evidentemente la richiesta di incontro dell'ACER insomma andava incontro proprio a una sorta di necessità di garanzia, insomma, affinché probabilmente quell'episodio non fosse ripetuto in modo massiccio, ecco. E, anche perché appunto da parte istituzionale e amministrativa a tutto si pensa tranne che a così approntare un minimo di provvedimenti che possano sanare la situazione, nel senso che realmente il numero delle case sfitte ha raggiunto delle vette molto molto alte, ma la risposta invece è quella di costruire nuove case. Ci sono, mi sembra ancora oggi, aggiornatemi se sbaglio, insomma, in ballo una serie di delibere che dovrebbero essere portate in consiglio comunale? Sì, ho dimenticato di dirlo, ma anche uno dei temi principali del corteo di sabato. Ecco, per l'appunto, una soluzione potrebbe essere anche così dall'alto quella di mappare o censire gli immobili sfitti, no? Sarebbe anche un minimo segnale. Certo, non saremo noi, insomma, a dare delle dritte, insomma, di buona amministrazione, peraltro, insomma, assolutamente cadrebbero nel vuoto, ma sarebbe un modo per partire, no? E dare un segnale di controtendenza. E invece si fa tutt'altro, cioè si cerca nuovamente di riempire gli ettari dell'agro romano rimasti liberi di presunto housing sociale, o di concepire delibere di ulteriore cementificazione. Dico di più, si esentano dall'IMU costruttori e società edilizie. Dovrebbe, in una logica di cui parli tu, sarebbe l'esatto contrario, diciamo, un provvedimento riformista, diciamo, per contenere il fenomeno degli alloggi sfitti. Invece abbiamo letto le interviste di non mi ricordo quale esponente dell'ACER che diceva che questa cosa era giusta perché tassare gli immobili sfitti sarebbe come sarebbe stato come far pagare il bollo alle auto ferme nei concessionari. Peraltro le vostre auto quando sono ferme il bollo ce lo chiedono uguale, per cui insomma il paragone credo che regga poco. No, magari parliamone un po', insomma, di queste misure che in un modo o nell'altro insomma stanno rendendo anche l'odiatissimo piano regolatore Veltroni quasi insomma un piano di secondo ordine. No, vabbè, forse adesso sto esagerando, ma insomma le oltre 60 delibere che si preannunciano come da discutere insomma in consiglio comunale davvero insomma costituiscono un problema enorme e vanno a definire quasi un secondo piano, tutto in mano insomma è giocato sulla, sul piano della speculazione insomma, no? Sì, appunto, diciamo, detta in maniera semplice il succo della questione, anche perché coinvolge tutta Roma, sì. Tutta Roma. Sì, sì, sì. Da Ostia fino a Sette Camini, da tutte le parti. E in sostanza Alemanno sta agli sgoccioli, poi siamo abituati a tutto, però cioè, a tutte le sorprese, ma insomma non ha buone chance di essere la rimonta di Alemanno proprio non la si può immaginare. Sì, sì, oddio, non so chi potrebbe votarlo, basta aspettare un autobus, insomma lo maledici in tutti i modi comunque, se non lo farei, se non lo fai già da prima insomma. E sostanzialmente, appunto, vedendosi agli sgoccioli, cerca in extremis di ricomprarsi il favore dei costruttori, che come sappiamo poi a Roma hanno gli strumenti anche per muovere un bel po' di opinione pubblica, a cominciare dai giornali, e lo fa, diciamo, facendo scempio della vivibilità della città, per non parlare del verde pubblico, cioè, che proprio non si pone neanche il problema. Ma poi la cosa peggiore è che la città è sempre più invivibile, perché appunto si costruisce senza, a parte si costruisce quando non bisogna costruire, almeno finché non sono utilizzati tutti gli stabili già esistenti, e comunque si costruisce in un modo in cui il risultato è assolutamente, diciamo, disordinato, senza alcuna attenzione verso il trasporto pubblico, le comunicazioni eccetera eccetera, e quindi insomma poi noi tutti i giorni siamo costretti a attese interminabili all'autobus, a fine macchina, a spese per i trasporti, a raggiungere posti di lavoro lontanissimi oppure servizi sempre più lontani. La cosa, diciamo, che più fa rabbia è che Alemanno, insomma, con ogni probabilità ce lo vediamo dalle scatole in breve tempo. Poi ovviamente ci sarà qualcun altro al suo posto a fare più o meno le stesse cose, però questi provvedimenti resteranno per sempre, perché una volta che tu hai costruito un quartiere non è che quando va via il sindaco il quartiere non c'è più, quello te lo tieni, e questo chiaramente è la cosa che ci spinge a dire che questa roba va fermata adesso, perché ripeto, gli effetti durano per sempre. Su questo magari ci potete aiutare anche a definire meglio la geografia insomma delle lotte e dei comitati che si muovono attorno ai problemi legati all'urbanistica e alla definizione di una migliore vivibilità all'interno dei nostri quartieri urbani insomma. Ho visto spuntare una nuova sigla, Comitati contro il cemento, Roma contro il cemento, qualcosa del genere, insomma, e mi sembra che raduni una serie di comitati proprio in merito a queste delibere. Sono comitati di quartiere, sono realtà, diciamo, associative? No, lo sto chiedendo a voi. Ah, ok, onestamente non lo so, per cui non voglio dirne né bene né male. Sicuramente, diciamo, l'unica cosa è che in tempi di campagna elettorale è sempre bene verificare, certo, di che si tratta. Sicuramente magari sono compagni bravissimi, non voglio offendere nessuno, semplicemente lo ignoro. Sì, no, anch'io non conosco precisamente, però diciamo che ci sono stati anche all'assemblea di presentazione del corteo associazioni come Italia Nostra, insomma comunque di cittadinanza attiva in qualche modo, che possono essere di quartiere o meno di quartiere, che però su queste tematiche giustamente si mobilitano, insomma, su, poi magari ognuno con le sue posizioni politiche più o meno moderate, però bene così, insomma, che la questione coinvolga più realtà possibile, anche di diversa natura. E su questo, insomma, ci sono stati recenti passaggi proprio su Al Campidoglio dal punto di vista così della mobilitazione? O quello di sabato sarà in pratica una delle prime uscite? Sì, come dici te, cioè, la cosa inizierà di fatto dal corteo di sabato. Va benissimo, allora io direi di andare con un po' di musica e poi invece passiamo all'argomento relativo alla campagna stampa del Messaggero, alias Caltagirone. Ah, ritorniamo subito in voce. Dunque, a partire da giovedì 10 gennaio, mi sembra, sono comparsi sul Messaggero una serie di articoli, la maggior parte dei quali a firma di Panarella, poi però c'è anche un trafiletto non firmato, insomma, forse quello più provocatorio. In generale, insomma, si depreca la forma dell'occupazione come risoluzione del problema abitativo. Vabbè, si dicono tutta una serie di menzogne rispetto alla gestione delle occupazioni, come se ci sia non, diciamo, una assolutamente normale gestione interna, ma una sorta di comitato d'affari, insomma, che controlla le occupazioni cercando... Questo chiaramente è quello che sembra molto spesso uscire dalle ricostruzioni giornalistiche, anche di specularci sopra, ma soprattutto poi un trafiletto dedicato all'occupazione 8 marzo che, come la maggior parte di voi saprà, insomma, è stata al centro di uno sgombero, ma soprattutto un processo che è ancora in piedi, che riguarda 5 compagni e compagne, e sebbene una serie di capi d'accusa siano venuti meno, siano caduti, e questa è la cosa principale su cui adesso Giobbo insomma farà chiarezza, rimangono comunque i capi d'accusa normali, insomma, relativi alle occupazioni abitative. È chiaro insomma che però si cerca di, come dire, affondare, no, di intingere laddove peraltro non è più possibile, visto che dalle accuse più pesanti, assolutamente gratuite, che erano piovute in testa a questi compagni, a queste compagne, sono state sgretolate, smontate nel corso dello stesso processo. E quindi questo, non so, un messaggio a chiunque insomma sta lì a imbrattare carta stampata piuttosto che a fare un lavoro peraltro anche bello da un certo punto di vista, ma certo se fatto insomma in questi termini, se si procede così insomma nel ricostruire una vicenda peraltro anche abbastanza delicata, non solo si fa della cattiva informazione, non solo si riproduce una sorta di atteggiamento infamante, ma peraltro insomma io credo che ne vada meno anche della propria deontologia professionale, perché insomma calunnie così gratuite insomma che appaiono su un quotidiano è assolutamente scandaloso e vergognoso. Sì, diciamo, allora giovedì appunto è apparso questo articolo in pompa magna, doppia pagina sul Messaggero, che sostanzialmente, diciamo, rispolvera, fa disinformazione allo stato puro, rispolvera la solita merda, mi si perdoni il termine poco radiofonico, ma oltretutto aggiungo io è merda di repertorio, perché le non notizie, le bugie sono le stesse che ciclicamente vengono ritirate fuori. In particolare se la prende con l'occupazione di Corso Italia, e tirando fuori veramente cose che senza senso, cioè il bunker col portone chiuso, come se nei palazzi normali il portone fosse aperto, gli scagnozzi all'ingresso che non ci sta, e così via. E diciamo, la mia personale opinione è che quell'articolo significa semplicemente che una certa area ex AN, cioè in particolare il solito simpaticissimo, si fa per dire, Fabrizio Santori, ha aperto la campagna, farà anche questa volta la campagna elettorale su questo e niente di più. Poi chiaramente dipende quanto è potente, quanti agganci ha rispetto ai problemi che ci può comportare. E d'altro canto, voglio dire, su qualcosa dovranno pur fare la campagna elettorale, visto che non saprei neanche immaginare cos'altro potrebbero dire, visto che insomma quello che sono riusciti a combinare nel tempo che sono stati al governo, all'amministrazione della città. E nello specifico, cioè in più, tra le altre cose di repertorio, si ritira fuori la questione degli arresti dell'8 marzo, che preciso non è stata mai sgomberata, ma continua a essere lì, diciamo, dove continua a essere lì, ma non diciamo un'occupazione in politica spontanea, anzi nel degrado più completo, proprio da quando diciamo qualunque tipo di nesso, legame o di intervento da parte dei compagni o dei movimenti di lotta per la casa è stato troncato di netto proprio con la forza da parte dei carabinieri. E quindi si rispolvera quell'episodio, diciamo, scrivendo delle affermazioni che sono semplicemente false, ma in questo tipo che appunto c'era un racket, spedizioni punitive, eccetera, eccetera, e sono false, non lo dico io, ma lo dice la sentenza del giudice per udienza preliminare, il quale ha scritto una sentenza in cui tutta l'impianto accusatorio basato sull'associazione dei delinque, sul racket, sull'estorsione, i soldi per le stanze, eccetera, eccetera, è crollato, ed è scritto nero su bianco che questo lo dice un giudice. Ogni tanto bisogna anche stupirsi del giudice, la volta scorsa era quello sul CIE, dice che diciamo, il fatto di costituirsi in un'assemblea e quindi darsi delle regole che sono quelle della data organizzazione, in cui in assemblea si decide e poi si rispettano le decisioni dell'assemblea, non è una forma coercitiva, non è una forma criminale, ma è un modo, al di là del poi, non è che dice che è giusto occupare, ovviamente quello fa il giudice, però diciamo nella sostanza dice che, tutto, che il fatto da quel punto di vista non sussiste. E quindi su questa cosa mo valuteremo pure, perché poi penso che i mezzi per andare contro a questa gente, mi riferisco ai giornalisti, vanno percorsi tutti, se sarà possibile querelarli. E dopodiché però, come dicevi tu, e chiudo la parentesi, il processo, poi avremo modo magari di riparlarne anche da questi microfoni, il processo di fatto non è chiuso, sono cascate le accuse più brutte, va avanti un processo per episodi specifici, la prima la prossima udienza sarà il 19 febbraio e in questa sede diciamo sarà anche divertente per certi versi, perché parleranno, ammesso che poi si presentino, però comunque dovrebbero parlare gli esponenti dei carabinieri, che hanno diciamo materialmente messo in piedi tutta la baracca, tutta diciamo la trama vincente delle indagini, e probabilmente, anzi sicuramente anticipiamo che daremo un appuntamento là, perché comunque è un passaggio importante del processo e quindi saremo ancora là, ma ovviamente diciamo ne riparleremo. Invece magari, quando saranno le prossime udienze? Allora, la prossima è il 19 febbraio e quella successiva è già stata fissata per marzo. Comunque il prossimo appuntamento è il 19 febbraio. Per quanto riguarda l'articolo, magari sì, aggiungo due parole sull'articolo, diciamo sulla doppia pagina del Messaggero della settimana scorsa, insomma, che questi due articoli, uno in generale sulle occupazioni, in cui si parlava della triste mappa delle occupazioni romane, ovviamente per Caltagirone è certamente triste che ci siano tanti edifici occupati a Roma, visto che lui è il principale palazzinaro e devastatore di questa città. E appunto si denunciava come ci sia immobilismo nelle istituzioni, che invece dovrebbero ripristinare la legalità e cancellare queste forme di autogoverno e di riappropriazione. E nell'altra pagina un articolo specifico che veramente faceva sciacallaggio su un episodio marginale e sfortunato avvenuto a Capodanno la mattina presto del 1 gennaio, in cui un incendio fortuito che può capitare in qualsiasi casa di chiunque ha danneggiato insomma una piccola parte del primo piano dell'occupazione di Corso Italia. Sono arrivati per fortuna in fretta i pompieri, quindi non è successo niente di grave. Il Messaggero ha pensato bene di specularci sopra, di parlare di ennesimo incendio, senza citare quali altri incendi ci dovrebbero mai essere stati in quell'occupazione, e intervistando presunti residenti che parlavano di un'occupazione che porta degrado nel quartiere, che porta delinquenza, furti e rapine. Anche lì citassero un solo episodio, un solo occupante arrestato per uno di questi reati. Non è così, insomma, purtroppo non ci stupiamo più di niente di quello che viene scritto da questi infami. Però insomma, a parte appunto anche alcuni accenti quasi divertenti di quell'articolo, insomma veramente ridicoli, appare come un'operazione vera e propria dettata dalla proprietà del giornale. Insomma, non leggendolo, non è certo il reportage di una giornalista in cerca di una giornalista freelance in cerca di fama, ma è proprio un articolo scritto sotto dettatura alla proprietà, in cui, secondo me, questa è una mia valutazione personale, proprio alla luce dell'immobilismo rispetto alle occupazioni da parte del comune, Caltagirone dà qualche segnale anche a chi sarà il prossimo sindaco, la prossima giunta, dicendo: guardate che noi costruttori non ci va per niente bene questa situazione, vedete che dovete fare, perché dovete trovare una soluzione che ovviamente deve essere una soluzione repressiva e che chiude completamente a qualsiasi forma di riappropriazione. Quindi vabbè, insomma, non sia opportuno neanche esagerare, insomma i movimenti si sanno difendere da soli, sia a livello fisico che a livello politico, soprattutto da accuse così ridicole. Insomma, penso anche che passeranno come tante altre infamità, e che insomma sapremo superarli proprio in maniera assolutamente tranquilla. Eh sì, sicuramente si tratta di un'imbeccata, insomma, dei palazzinari romani, di un messaggio anche ai futuri amministratori, prontamente cavalcato però, come peraltro veniva già accennato, anche dal politicante di turno. In questo caso, insomma, mi sembra che ci sia un po' di maretta anche dentro i partiti, perché c'è questa elezione, ci sono le primarie a sindaco ormai, no? Anche per il centrodestra, e quindi si cerca anche di fare le scarpe all'attuale sindaco all'interno della sua stessa compagine politica. Sì, infatti è una dinamica abbastanza ridicola, insomma, Santori e altri personaggi minori abbastanza squallidi del centrodestra, che adesso, dopo 5 anni in cui hanno bene o male governato, o comunque in cui i loro colleghi di partito hanno governato Roma, adesso fanno la campagna elettorale in opposizione dicendo: ah, però non si è fatto abbastanza contro gli sgombri. Vabbè, sono le logiche, insomma, securitarie a cui siamo abituati purtroppo da molti anni. La cosa positiva è che, di fronte a una situazione di crisi così profonda, di proprio impossibilità per tantissime, per centinaia di migliaia, forse milioni di persone, di avere una vita dignitosa, la logica securitaria penso che vada anche un po' a cadere, perché insomma parlare di legalità quando quello che fa Caltagirone o qualsiasi altro costruttore è perfettamente legale, e quando io non riesco a arrivare a fine mese, forse il concetto di legalità inizia a vacillare anche nelle menti e nei comportamenti delle persone, insomma. Allora, dunque, ritorniamo invece sull'argomento principale, che poi, insomma, è quello prioritario per cui anche si è concepito lo spazio odierno, e cioè il lancio di questa manifestazione del 19, ricordiamolo, a partire dalle ore 15, da Piazza Vittorio fino a Piazza Santi Apostoli, una manifestazione per dire no agli sgomberi, no anche a sgomberi, non solo quelli che sono stati fatti, ma anche quelli che forse la giunta, messa alle strette anche da questi interventi, vorrebbe fare. Si tratta di un corteo però che punta anche a lanciare un discorso importante rispetto a come risolvere il problema della casa a Roma, e soprattutto anche per contrastare, come dicevamo prima, i piani di ulteriore cementificazione, non solo di grandi parti della città, ma anche di ettari e ettari di agro romano. Il consumo di suolo, insomma, è certamente un argomento che fa sposare bene, insomma, amministratori, burocrati, politici e palazzinari. In questa città è il connubio perfetto che da sempre ha cercato di tirare le fila e governarla, la città stessa, e per l'appunto i movimenti di lotta per la casa cercano di offrire, diciamo, soluzioni alternative. Certo, infatti, vabbè, ritorno un attimo sui punti, appunto i due punti centrali della piattaforma della manifestazione, che sono il no a queste nuove delibere e la difesa e il rilancio rispetto al 6 dicembre, insomma, appunto un percorso che i grandi movimenti di lotta per la casa di Roma, tutti quanti insieme, hanno intrapreso con successo, direi anche. Adesso è il momento di difendere, scendere in piazza per mostrare quante persone e con che determinazione difenderanno tutti questi percorsi, e allo stesso tempo contrastare, e qui il discorso si amplia, appunto queste delibere, la continua cementificazione, e qui il discorso si lega, appunto esce fuori dal recinto della lotta per la casa e si lega a quella che è la gestione di una città, di un territorio, che non è possibile a causa delle centinaia di migliaia di case già vuote, che già esistono e che già potrebbero essere riempite per far fronte all'emergenza abitativa, invece nuove colate di cemento, e quindi il problema della speculazione edilizia, del profitto, della rendita che si incrementa ancora di più, e poi della devastazione del territorio, perché si continua a distruggere per sempre, come diceva prima anche Giobbo, cioè una volta costruito un mostro, un nuovo quartiere mostro di palazzoni che poi magari rimangono anche semi vuoti, non si toglie più, insomma, no, non si torna più indietro. Quindi è importante proprio impuntarsi, mettere un punto fermo e dire: oltre a qui non andate più, insomma, proprio mettersi sul terreno di un conflitto diretto contro la logica del profitto e della speculazione. E in questo, sì, il passaggio del 6 dicembre è stato molto importante, perché è stato un passaggio anche a tutto tondo, che non ha parlato solo di emergenza abitativa, ma ha parlato di una nuova gestione dei territori, di autogoverno, e ha lanciato proprio una sfida non solo all'amministrazione Alemanno, ma a proprio tutto un modo che è nazionale, europeo, globale, forse oserei dire, di gestire i territori, per l'appunto, di piegarli completamente sempre di più agli interessi del grande capitale, del grande o più piccolo, ma comunque del capitale e del profitto. Quindi, insomma, questo è l'intento di tutte le realtà che hanno lanciato il corteo, e la cosa appunto si è allargata perché ci sono comitati territoriali che difendono parchi o che lottano contro l'emergenza rifiuti, le nuove discariche, gli inceneritori. Ci sono comitati di quartiere che appunto su ogni vertenza che si presenta sul loro territorio si battono appunto poi con i vari metodi più o meno sinceramente democratici o conflittuali, che però appunto si ritrovano tutti quanti fortunatamente intorno a un no secco e determinato a tutto questo processo che si sta ulteriormente approfondendo in tempi di crisi, in cui un'amministrazione, diciamo, intelligente dal suo punto di vista e riformista agirebbe in tutt'altro modo, invece qui proprio si continua ad andare a testa bassa nella devastazione, proprio nella corsa ad arraffare il più possibile prima di essere cacciati magari dalle nuove elezioni e di perdere questi posti di potere. E è anche un messaggio però a chi verrà dopo, insomma, che noi non ci fermeremo di fronte a promesse di alternativa che rimangono solo elettorali, perché poi sappiamo bene che purtroppo una volta al potere, di fronte ai poteri forti e dell'economia, nessuno di coloro che si candidano probabilmente avrebbe velleità di contrastarli in maniera seria ed efficace. E quindi poi magari passiamo poi anche, questo ci torniamo dopo, parlando di auto-organizzazione e quant'altro, insomma. Senti, dunque, a questo corteo appunto ci saranno nella loro interezza tutte le anime che compongono il movimento di lotta per la casa, per il diritto all'abitare. Ci sarà però, è quello su cui vi state impegnando voi in maniera specifica, uno spezzone di realtà auto-organizzate. Sì, esattamente, diciamo che sì, nei mesi, anche nelle lotte che ognuna di queste realtà, che poi sono variegate, insomma, che ognuna di queste realtà ha costruito, a parte che appunto ci si incontra e si condividono le stesse lotte, quindi poi al momento di scendere in piazza si sente l'esigenza di farlo insieme in maniera visibile, portando contenuti chiari. L'esigenza poi principale è quella di continuare quotidianamente a portare avanti queste lotte in maniera condivisa, quindi non solo in maniera solidale, per cui si va a dare una mano a chi sta conducendo una lotta che ci piace, ma qualcosa di più profondo, insomma, che sappia valorizzare ogni pezzo di lotta in ogni pezzo di città e portare un attacco più forte a quello che è la nostra controparte, insomma. Quindi parliamo di realtà come il coordinamento di lotta per la casa, realtà territoriali che lavorano appunto in territori come Roma Nord o Ostia, parliamo di alcuni collettivi universitari, insomma. La speranza è che ci si allarghi poi, ora su questo corteo magari non parla molto di questo, però che ci si allarghi alle lotte sul posto di lavoro, alle lotte auto-organizzate, diciamo al di fuori delle logiche di contrattazione sindacale che si danno, perché per esempio un'esperienza importante che è nata nell'ultimo mese a Roma è la lotta dei facchini della SDA, che si collega a quelle del Nord Italia, che hanno fatto anche conquiste importanti nonostante appunto la repressione molto dura che hanno subito. Quindi diciamo che la volontà è quella di finalmente valorizzare lotte che ognuna nel suo piccolo sono anche molto forti, ma penso per esempio al movimento studentesco di Ostia di questo autunno, che è stato in tutta Roma l'esperienza più interessante perché ha coinvolto tutta la fascia studentesca a partire dagli istituti tecnici, quindi uscendo anche dalla logica della lotta solo per la scuola, perché lì si parlava di una periferia come Ostia, che è una città, non, cioè, è un quartiere ma è una città, priva di servizi, insomma, con i mille problemi che si vive in una periferia, e quindi gli stessi ragazzi non parlavano più soltanto di scuola, ma di tutto, della loro vita, insomma, banalmente, quella dei loro genitori, delle loro famiglie e di tutto quello che loro incontrano sul territorio giorno dopo giorno. Abbiamo Roma Nord, che nell'occupazione di Torre Vecchia ha creato un esperimento importante in cui compagni e compagne di zona insieme al coordinamento di lotta per la casa, insieme ai lavoratori e lavoratrici del San Filippo Neri, agli studenti medi di zona, hanno costruito anche un corteo molto importante, se non sbaglio il 20 dicembre, per le strade di Torre Vecchia a partire dal San Filippo Neri per arrivare sotto l'occupazione dell'ex clinica Valle Fiorita, molto partecipato come corteo, molto vivace, insomma, vedere cortei al di fuori del centro storico, in quartieri dove, dove c'è la carne viva di chi soffre la crisi e di chi giorno dopo giorno viene privato di sempre più cose, è importante, insomma, a tutte queste persone si dà anche un segnale forte che probabilmente limitandosi a sfilare nei centri storici non si dà, insomma. Quindi quello è un esperimento che a noi interessa molto, tornare nei quartieri e unire lotte apparentemente anche lontane, perché un occupante in emergenza abitativa e un lavoratore, un infermiere dell'ospedale, non è scontato, insomma, legarli in una lotta che parli lo stesso linguaggio, che parli proprio delle stesse cose, che crei una condivisione forte. Quindi questo primo passaggio sicuramente da implementare, da migliorare, però è stato secondo me molto molto importante. Ci sono anche realtà universitarie che da quando sono nate, insomma, sono abbastanza recenti, e parlano di uscita dallo studentismo, dalle lotte fatte solo dentro le mura dell'università, parlando solo di università, ma appunto sottolineando il fatto che uno studente universitario è sempre più vittima poi di tutte le dinamiche che interessano tutta quanta la città. Lo studente universitario vive in case dove gli affitti sono inaccessibili e quindi ha sempre più necessità di occupare, e non è un caso che negli ultimi anni gli studentati occupati in tutta Italia stiano conoscendo una vera e propria esplosione, e infatti il 6 dicembre tra le varie occupazioni c'è stata quella dei ragazzi e delle ragazze di Roma 3, Alexis su via Ostiense, che questo è uno studentato, insomma, e ce ne sono già altri nati negli anni scorsi e probabilmente ne nasceranno altri, perché là il bisogno è estremamente vivo, insomma, quindi succederà ancora. E appunto siamo utenti di mezzi pubblici che non passano e che costano tantissimo, siamo completamente inseriti nel tessuto della città ai tempi della crisi, se così si può dire, e di conseguenza tocca agire, insomma, legarsi a quelle lotte che parlano di noi e di bisogni assolutamente simili, uguali ai nostri. Va bene, allora andiamo a chiudere. Ora, tutte queste realtà, insomma, che nel tuo intervento sono state menzionate, insomma, hanno già preso parte, sono state coinvolte nel processo di costruzione di questo appuntamento. So che c'è stata anche di recente un'assemblea al Cinema America, ad esempio. Immagino che comunque si sia sviluppato anche a partire da quell'appuntamento un dibattito, no? Sì, sicuramente l'assemblea di lancio, dove erano presenti appunto tutte quante le realtà promotrici, quindi tutto il vasto raggio di cui parlavo prima. E sì, appunto, c'è il dibattito, poi è su posizioni appunto che compatte nel combattere quei due punti che accennavo prima, sulle delibere, insomma, sulla devastazione dei territori, con accenti poi diversi. Appunto, noi pensiamo ad esempio che ci sia necessario in questo momento un rifiuto totale dei percorsi che portino a delega, rappresentanza, proprio perché siamo sotto elezioni. La necessità di formare questo spezzone parte anche un po' da questo, cioè uno non è certo l'unico tema, ma parte anche da questo, perché pensiamo appunto che l'alternanza all'interno di un quadro di compatibilità con le esigenze del capitale sia impossibile, ma sia sbagliata. Cioè, in questo momento il terreno è un altro, è forse più difficile, ed è quello di, visto che le istituzioni, per quanto magari io personalmente possa pensare che che non sia una strada che mi piace in generale quella di correre per avere posti nelle istituzioni, ma soprattutto in un periodo in cui sono del tutto svuotate di poteri, sia quelle nazionali ma anche quelle locali, insomma, che il loro potere decisionale è minimo, che i tempi dei diktat sono molto brevi e che quindi se ti viene ordinato in un mese di fare una cosa, te in un mese la devi fare e non c'è neanche il tempo di fare un dibattito in Parlamento o in Consiglio Comunale. E a questo punto, a questa avanzata incontrastata dei profitti, proviamo a contrastarla sul terreno dove noi sappiamo stare, cioè nei nostri posti di intervento, nei nostri territori, nelle scuole, nelle università, per strada, nei quartieri, nei posti di lavoro, molto importante anche questo, contrastarlo lì, perché lì noi abbiamo se ci mettiamo insieme con processi assembleari di autogoverno, ci diamo delle nuove regole, ci riappropriamo pezzo per pezzo di tutto questo può diventare possibile. La creazione di grandi ostacoli, addirittura di magari rilanciare e andare noi a rosicchiare quantomeno qualcosa a chi gestisce le città, a chi gestisce i territori, soprattutto dal punto di vista economico. Creare delle reti, mettere in rete queste esperienze e iniziare a governare noi dal basso, diciamo, tutte queste, appunto, non solo i territori ma anche i luoghi dove poi passiamo le nostre giornate, che siamo di studio e di lavoro. E appunto, quindi in questo noi anche ci caratterizziamo, perché insomma non pensiamo sia sufficiente riversare le nostre lotte sperando che qualcuno venga a rappresentarci e riesca addirittura a portare efficacemente queste istanze in istituzioni che appunto sono solo serve degli interessi del capitale variamente declinato. L'Assemblea Cinema America appunto ci si sono confrontati con le varie posizioni, tutte assolutamente legittime, insomma un dibattito che deve continuare, che è sicuramente importante e interessante. La costruzione di questo spezzone non è, diciamo, vuole essere un passaggio fondamentale o di chissà quanto costituente, ma appunto l'esigenza di realtà affini che condividono proprio le stesse lotte, le stesse tematiche, di scendere in piazza insieme. L'esigenza principale non è tanto il corteo, è quella di continuare dopo, trovando le forme, quindi continuando le assemblee pubbliche magari nei vari posti e elaborando nel dibattito collettivo quelli che possono essere i migliori metodi di lotta. Insomma, ci siamo dati una sfida, non è nessuno alla risposta, la ricetta pronta in tasca, però la sfida ce la siamo data, insomma, giocarla fino in fondo sicuramente l'interesse di tutti. Va bene, allora tutti e tutte in piazza sabato 19 alle ore 15 a partire da Piazza Vittorio, che è il luogo di concentramento di questo importante corteo. Per un movimento, quello di lotta per la casa, che certamente insomma da sempre storicamente ha espresso importanti livelli di lotta, riappropriazione e mobilitazione, e che insomma a dicembre ha vissuto e ha consegnato insomma un po' a tutta la città un'espressione, un momento di grande vivacità che certamente è salutare insomma per tutti gli altri movimenti, tutte le realtà che cercano faticosamente di costruirsi un loro spazio di intervento in una fase dura, difficile come questa. Ma insomma la spinta che è venuta da queste occupazioni certamente va presa a titolo di esempio, proprio per cercare di dare una sterzata attraverso la quale coinvolgere in maniera diretta poi i referenti, i soggetti sociali, gli studenti, tutte le classi sociali a cui si è fatto riferimento anche nel discorso poc'anzi concluso. Grazie di tutto. Grazie a voi e un saluto a tutti e a tutte, a presto, insomma. Alla prossima. Ci sentiremo.